Le femmine cristiane di parlare sono come le musulmane, si ne fanno per le strade nella festa di Natale. Le femmine cristiane di parlare sono come le musulmane, si ne fanno per le strade nella festa di Natale. E culo velo, con i vestiti di seta loro, trasi in una chiesa come agnetti, ma su un antilopi e gazzetti. Culo manto e culo velo, con i vestiti di seta loro, trasi in una chiesa come agnetti, ma su un antilopi e gazzetti. Vanità, che ne portano lontano nella grazia di tuoi occhi.